Sì, io ho cominciato proprio con la radio e il doppiaggio. Doppiavo i film porno all'inizio, 35 anni fa. Era... Ti piace? Ti piace? Dimmelo che ti piace. Avanti. No, era così, ma una cosa... La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Che cresce, che non fa rumore, voi siete quattro alberi che cadono e presto non ci sarete neanche voi. Fai così, guarda, io ti consiglio una cosa, carica il podcast, ascoltati e sentirai quanto sei noioso. Mi sembra che siete pazzi entrambi comunque. Siete criminali! Questo era il signor Scilipoti, signor Scilipoti. Com'è che dice? Com'è che dice? Scilipoti. Ah, scusa, Siete criminali! Ma l'idolo del giorno è un altro, non Scilipoti Isgro che dice siete dei criminali, l'idolo del giorno è un altro, io lo vorrei abbracciare, direi che vorrei tatuarmi sulla pelle queste parole. Si chiama Maurizio Bianconi, nostro amato Maurizio Bianconi, il quale dagli amici di Radio Cusano Campus ha detto delle frasi che resteranno secondo me nella storia, almeno per quello che mi riguarda, soprattutto sulle religioni. Senti cosa dice sulle religioni. La stessa cosa che dico io, E lei sogna un mondo senza grande. Chiesa, Bianconi. Sì, sì, senza chiesa e senza religioni. Se lei pensa al danno che hanno fatto il monoteismo nel mondo, lei pensi che Allah, Dio e gli ebrei, pensi i casini che fanno. Se c'è caduta la bomba atomica su Gerusalemme, che non fosse mai nata, probabilmente gli uomini stavano un po' meglio. Una bomba atomica su Gerusalemme. Gli uomini starebbero meglio. Le tre religioni monoteiste sarebbero scomparse, secondo me. Uno dei posti più belli del mondo. Vabbè, prenditela con Bianconi e non te la pigliare con me. Cioè, appunto, lo dico a Bianconi, uno dei posti più belli del mondo. Sogna un mondo senza religione. E io sogno un mondo senza Bianconi. Quindi. Papa a pericolo pubblico per l'umanità. Prima abbiamo questo Papa che è un pericolo pubblico per l'umanità. No, perché Bianco... finisca la svelta il suo mandato, che il Signore pensi alla sua comunità. Perché pensa questo? Perché dice che è pericoloso a te e agli altri. Ma perché? Demagogo, populista, gesuita, travestito da francescano, è pericolosissimo. Questo è pericoloso come un coltello dei Sig per tutti. Demagogo, populista, eccetera, eccetera. Papa, pericolo pubblico per l'umanità. Bianconi numero uno. Quagliariello, scusate se pronuncio il nome Quagliariello, mica perché non voglio offendere il Quagliariello, perché non lo conosce il nessuno. Il professor Gaetano Quagliariello. Ah, sì, vabbè, non è un argomento di grande popolarità. Diciamo le sorti politiche di Quagliariello, uomo per carità, professore rispettabilissimo, eccetera, diciamo che non ci angosciano molto. E anche i suoi travagli politici sono cosa che non ci è particolarmente vicina. Insomma, gli italiani se ne fottono di quello che fa Quagliariello, adesso diciamo la verità. Ecco, Bianconi ha una opinione particolare di Quagliariello. Quagliariello era radicale e ora si confonde da radicale che era con i cardinali, è diventato più baciapiede di un prete e si incassa per riunioni civili. Ora, siccome è, vuol tornare indietro. Questo è peggio dell'AIDS. Mettere un tonno è pericoloso. È peggio dell'AIDS. Mamma mia! Sì, Bianconi. Allora, c'è una polemica per il fatto che Salvini, dopo aver detto ieri che reintrodurrebbe il servizio militare obbligatorio perché i giovani devono imparare l'onore e il rispetto, una cazzata memorabile, devo dirla, Salvini, in maniera molto franca, in maniera molto chiara, il servizio militare obbligatorio è una puttanata pazzesca. Ce ne siamo fortunatamente liberati, io l'ho fatto per un anno, purtroppo uno degli ultimi a farlo. No, io non l'ho fatto. Tu l'hai fatto perché, come al solito, avrei leccato il culo a qualcuno. A nessuno, perché sono stato semplicemente riformato. Appunto, per essere riformato devi leccare il culo a qualcuno, oppure devi avere cose gravi. Che cosa avevi di grave? Avere all'epoca mia, come dire, il torace meno di qualche centimetro. Per motivi fisici sei stato riformato, una cosa pazzesca, tanti, certo. Una cosa incredibile. Sì. Comunque, no, ma che ti misuravano il torace? Sì, ma lo so. Si chiama insufficienza toracica, si chiamava. Ma che insufficienza toracica, dai, bisogna avere la spintarella per queste cose, ma dai. Quale spintarella? La spintarella, la lobby, là, come dice. No, no, che se dici strada qua la gente poi ci crede. Ma lo so, amico mio, ma il torace, cioè mica sei meno matto, cioè non è che hai problemi. Guarda, se tu ti Sì, ma lo so benissimo, militare, lo so benissimo. All'epoca che cos'è. Si chiamava insufficienza toracica. No, ma lo so benissimo, però. Per fortuna avevo quella che si chiamava insufficienza toracica, cosa che. Però e non hai fatto il militare, va bene. Non mi ha danneggiato nel corso della vita, appunto, visto che non appunto, ce l'ho più, appunto. E non ho fatto il militare. Appunto. Ecco. Comunque, il servizio militare obbligatorio che vorrebbe reintrodurre Salvini è una stronzata che ormai non si può fare. Il servizio civile obbligatorio ci vorrebbe. No, ma che obbligatorio? Obbligatorio non bisogna perché fare nulla. Ti farebbe bene anche a te, con quella testaccia che c'hai, andare a pulire il culo un po' agli anziani. Ma io ci vado se voglio farlo, non perché me lo obbliga lo Stato. Obbligato, cambieresti punti di mentalità. Ma tu non hai mai pulito il culo a nessuno, almeno io. Come ma no? Non avevo... A tuo figlio al massimo hai pulito il culo, e forse sono manco lo fai. Sociali ne ho fatte e forse parecchie. Manco lo fai, ma non hai mai pulito il culo a nessuno. Non dire stronzate. Sociali ne ho fatte parecchie. Al massimo hai Ma ti farebbe bene. Allora, ma poi perché questa idea che io, perché poi la gente veramente se no ci ma crede. Stai tranquillo, stai io tranquillo, stai calmo. Sono le 18:40, sono le 18:40, sono molto più divisivo di quanto. Ma sono le 18, quanto ti devi giustificare sempre di fronte a tutto? Abbiamo 2 ore e mezzo. Beh, io mi giustifico. Allora, la c'è, mia, ma non c'è reputazione. Ma non c'è bisogno, qui non è, qui è, qui siamo alla radio, è diversa, la reputazione no, non c'entra una mazza. Reputazione. Ma chi se ne fotte? 18:40 e abbiamo e abbiamo Salvini che è comparso con la maglietta della polizia in una trasmissione. La polemica è questa: si può andare in una trasmissione televisiva con la maglietta della polizia, cioè a rappresentare in sostanza le forze di polizia italiane? Onorato di averla avuto in regalo. La cosa che mi fa incazzare è che spesso e volentieri questi ragazzi se la devono pagare loro. Ad esempio, queste se le sono pagate loro perché lo Stato non ha abbastanza soldi per vestire i suoi uomini, e questo è delirante. Se... Vabbè, questa è la solita polemica che tutti quanti fanno sui soldi che la polizia non ha, e puntualmente poi non arrivano questi soldi. Tutti quanti dicono che bisogna dare più soldi alla polizia da almeno 30 anni. No, che io sento questa polemica. Un politico che va in televisione con la maglia della polizia è una cosa patetica. Alcuni poliziotti ridicolo. Sono incazzati, alcuni poliziotti sono incazzati. No, ma è proprio ridicolo perché fa il poliziotto, capisci? Con i messaggi che aveva lanciato fino a qualche giorno fa sulla armata e via. Cioè, è veramente. Vabbè, quello patetico. Che c'entra, scusa, quello non c'entra nulla. Beh, c'entrano le due cose insieme. No, ma sì, assolutamente il portiere no. della notte che va lì per ma non c'entra niente, non c'entra, non c'entra nulla, guarda, non c'entra nulla. Comunque, la questione dei soldi e dei contanti, Renzi questa mattina qui a Radio 24 l'ha affrontata in questo modo, dicendo che se c'è in giro più contante, questo non significa che l'evasione sarà maggiore. Come? Se mi dicono che questa misura è una misura che semplifica e liberale, io dico di sì. Se mi dicono che questa è una misura che sostiene l'evasione, dico che i dati dimostrano che non è così, perché non è stato il contante a ridurre l'evasione. Sempre Renzi cosa dice? Sempre Renzi dice che non c'è stato nessun accordo col Vaticano per mandare via Marino, ma per altre cose noi non gli crediamo, perché Marino è stato buttato giù da una specie di manovra a tenaglia Renzi Vaticano, eppure noi in piccolo abbiamo dato un contributo. Noi siamo il governo che ha fatto l'accordo con la Svizzera per riportare i denari, la voluntary disclosure. Abbiamo fatto l'accordo col Vaticano e siamo stati i primi a fare un accordo col Vaticano per riportare indietro i denari, con Liechtenstein. Non per cacciare Marino. Dai, questa non è la palla. No, però sa di Roma è. Allora, nei giorni scorsi, Vladimir Luxuria, che cosa ha detto? Ha detto che in realtà il sindaco di Roma Beh, potrebbe essere stato buttato giù per uno scandalo sessuale. Per uno scandalo sessuale. Vladimir, come stai? Ciao. Molto bene. Come andiamo, cara? Come andiamo? Posso dire una cosa su Salvini che mi è molto divertita vederlo. Cosa? Dimmi. Vederlo con la scritta polizia, la manifestazione di poliziotti. Se lo invito al Gay Pride, che si mette la felpa con scritto culattun. Beh, questa non è male, sì. Se viene al Gay Pride dovrebbe mettersi la scritta, che ne so, Gay Pride, direttamente, Gay Pride. Gay Pride. No, oppure gay Village sotto. Sì. Ma non verrebbe, no. Secondo me, non verrebbe. Ma è un vero travestito. Perché? Indossare i panni di mica un poliziotto. È lui il vero travestito, cioè, il vero trans, certo. È lui, il vero trans. No, travestito direttamente. Sì, lo so, trav e trans è un'altra cosa. Almeno qui ci arrivo, guarda, la differenza tra trav e trans. Devo dirti la verità, caro Vladimir, ho conosciuto recentemente una trans, molto donna. Molto molto donna, cioè non si veramente non c'è, non vedi la differenza, molto molto donna, poco meno di 30 anni, così per motivi vari, è amica di un mio amico, non si riesce a distinguere. Beh, qualche tentazione ce l'ho avuta. Più e di non che... hai ceduto alla tentazione? Non ho ceduto per motivi che adesso non posso rivelare, per motivi molto... Per alcuni motivi, però non ho ceduto, anche perché poi non lo so, non voglio superare questa linea, insomma, non voglio superare questa linea per il momento, non voglio superare questa linea. Ma che faccio? Che dici? Ma secondo me dovresti provare il brivido trans. Dici? Comunque è un'esperienza, sì. Cioè, se non si prova, se non si prova questo brivido, dici che non alla fine è un'esperienza. Come puoi dire che una minestra non è buona se non l'hai mai assaggiata, no? Sì, io con una donna ho provato ad andarci, però non ce l'hai fatta. Ho toccato le tette, ho pensato vorrei averle io. Era proprio... Ma tu non sei mai andato con una donna? Sì, sono andato. Ah, sei andato? No, ma nel passato sei andato, molto tempo fa. Sì, nel passato. Molto tempo fa, però proprio non ti piaceva. Poi ho superato questa fase lesbica e ho pensato che... insomma, mi interessavano altri articoli. Beh, sì, questo è chiaro. Ma poi si capisce. Riprenderemo più avanti. Ma lo scandalo sessuale di Marino? Ma c'è allora, o non c'è? No, allora io ho detto una cosa, ho seguito il ragionamento dicendo mi avrebbero messo la cocaina in tasca pur di farmi mandare via. Sì. Per cui io l'ho detto subito, da quando è stato indetto l'anno giubilare a Roma, che non sarebbe stato l'anno giubilare con il sindaco Marino, uno che ha le sue posizioni, le posizioni sulle unioni civili, sul testamento biologico. Per cui ho detto non mi meraviglierei se... non essendo bastata la panda rossa, non essendo bastati i viaggi e gli scontrini fiscali, si tirasse fuori uno scandalo sessuale pur di mandarlo via. Vabbè, però sai qualcosa in più tu, dai. No, io non so niente. No. Tu sai che se sapessi qualcosa non mi riesco a tenere un cece in bocca, lo direi. Però sono sicura di questo, cioè sono sicura che... si sarebbe tirato fuori uno scandalo sessuale se non fossero bastati gli scontrini, pur di mandarlo via, perché era scomodo, appunto, non so. Ma non ti sta, non... esatto. Ai palazzinari, non lo so, ai dirigenti corrotti che hanno mandato in fallimento tante aziende municipalizzate, ma soprattutto al Vaticano. E soprattutto al Vaticano. A me pure, guarda, io ma non poi sono. È uscita fuori la lettera, cioè non è che stiamo dicendo. Vabbè, abbiamo sentito paglia nello scherzo che abbiamo fatto noi, che c'entra? Questo esatto, pure. Voi avete tirato fuori una. Per fortuna, attraverso una telefonata avete tirato fuori la verità. A me pure sta sulle palle questo. A me pure sta sulle palle questo fatto qua, che il Vaticano abbia fatto fuori un sindaco, un po' con tutti. Non ho in grande simpatia Marino, devo dirti la verità. Però il fatto che il Vaticano lo abbia in pratica fatto fuori, questo non lo posso sopportare da un certo punto di vista. Non lo posso sopportare che un sindaco di Roma debba essere prono per forza al Vaticano. Non lo posso sopportare. Che ti devo fare? È più forte di me. Ma perché non ti candidi? Ma figurati. Candidati, dai, bellissimo. No, guarda, saresti perfetta anche per la lista Zanzara che voglio fare. Voglio fare una lista Zanzara molto dirompente. Saresti veramente perfetta, però poi avrei altre cose. Grazie della proposta, ma credo che sia un compito davvero. Beh, bellissimo. Vladimir Luxuria, il quale non sono all'altezza. Sindaco dai. Di Roma, ma con tutti quelli che ci sono stati, figuriamoci, non sei all'altezza. Ma è contento il Vaticano. Bellissimo, per questo. Luxuria candidata a Roma, ma è una cosa pazzesca, dai. Il Vaticano che fa fuoco e fiamme contro di te, fermi tutti, torniamo tra un attimo. Le strade in diretta saranno anche utili. C'è il traffico. Mamma mia, no, il traffico, no. Sono una boiata pazzesca. Traffico, no. Fate qualcosa, vi prego. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta La Zanzara. Ma io ho chiamato La Zanzara, mica ho chiamato, che ne so, Barisoni. Allora, siamo con Vladimir Luxuria, che non vuole candidarsi nonostante le mie insistenze al sindaco di Roma. Per me sarebbe comunque una candidatura dirompente. Ma chi vorresti come sindaco, Vladimir, a Roma? Dai, dimmi, dammi un nome del tuo preferito, dai. Oddio, sai che non lo so. Bah, un Marino Bis, guarda. No, vabbè, dirlo. Marino ormai è finita, dai, su, dai. È finita. Secondo me si ricandida. Secondo tu dici si ricandida, ma tu, ecco, con lui, se ti chiedesse di stare in una sua lista, ci staresti? No. Come no? No. Dai, lista con Marino. No, ma io ho finito con la politica. Ma che hai finito? Dal 2008. Mai dire mai. Mai dire mai, ricordati che poi magari arriva qualche... Mai dire mai, no, però per il momento no. Come io con i trans, mai dire mai, scusami, è la stessa cosa, dai. Ho conosciuto questa che è veramente, veramente notevole, sei gelosa, però no? Poi mi sento offesa, sei gelosa. Ci conosciamo da tanto tempo, sei gelosa. Poi ne conosci un'altra e subito... Vabbè, perché qua a Milano è diverso, dai, sì, ah, vabbè. Qua a Milano non è conosciuta, ecco, dire no, non c'è problema di privacy. Ah. E beh, quello è un problema, No, non è un problema se dovessi raccontare. Senti una cosa, ma molti si sono stupiti che nella trasmissione, quella che fai su DJ TV, com'è che si chiama? L'isola di Adamo ed Eva. Capito, Lorenzo? L'isola di Adamo e tu non hai mai visto nulla, non hai mai visto niente dell'isola di Adamo ed Eva, tutti no, nudi. Questo lo guarderò con piacere perché mi piace DJ. Tutti nudi, tutti nudi. Sì, sì, ho qualche scena l'ho vista in questa spiaggia, a un certo punto c'era questa corsa di questi uomini nudi che dovevano arrampicarsi su una... Sì, una pianta, sì, una volta sì, ho visto 5 minuti, confesso. Sì. No, non hai visto nulla in realtà. Però sì, sì, l'ho vista. Io di televisione vedo tutto quello che c'è in televisione. Molti si sono stupiti che a Luxuria si veda il pacco, no? Cioè, ma scusate, ma vabbè, adesso nel dettaglio no, è importante perché hanno fatto titoli sul web, eccetera, si vede il ho capito, ma l'ha detto che non si è operata, no? Vladimir. Ma io non sono mica nuda sull'isola. Sono l'unica persona vestita e la conduttrice di questa trasmissione. E perché non ti spogli pure tu, scusa? Perché il ruolo da conduttrice vuole che sia l'unica vestita. Beh, però non va bene questo, Però non va bene. Perché? Però non lo spogliamo, ma non ho capito. No, ma io non mi spoglio, sarebbe non vorrei stupire con effetti speciali, no. Beh, cioè, se ti spogliassi, a vita mia, diciamo la verità. Diciamo lascio questo privilegio a quei pochi, o forse tanti che ti frequentano quella soglia della mia camera da letto. Vabbè, puoi varcare anche soglie di altre camere da letto, non la tua, insomma. Poi secondo me io nuda non lo so quanto... Quanto rendi, dici? No, il format prevede che la conduttrice sia l'unica persona vestita, mentre sono i concorrenti che sono completamente nudi, io li vedo. Io sono vestita e loro li vedo nudi e noto. Mamma mia. Ma chiedere? No. Ho visto tantissime ragazze nude e tantissimi ragazzi. Ma quando uno vede troppe persone intorno nude, alla fine non succede, cioè alla fine sei... Ma diventa un po' come il naso, c'è chi ce l'ha più grosso, c'è chi ce l'ha più piccolo. Sì, non fa più nessun effetto, non fa più nessun effetto. Il concorrente lo avevamo soprannominato Erlattina. Sì, ho letto, sì, Erlattina. Vabbè. Adesso invece ce n'è un'altra, una ragazza che è stata soprannominata la Coccinella. La Coccinella. Aveva proprio la forma del tatuaggio. Proprio il tatuaggio della Coccinella lì. Ah, che le ho chiesto se le aveva portato fortuna e lei mi ha detto sì tanta fortuna. Poi diciamo la verità, ma 7 opere chi te vuole? Guarda, in maniera brutale. Sì, guarda, allora però ti dico una cosa, una si opera quando si sente proprio di operarsi, non è che lo fai perché vuoi piacere più o meno a delle persone, lo fai per la tua esigenza interiore. È vero, però la realtà è questa. È un'operazione irreversibile, quindi lo devi fare per tutto perché devi piacere a te stessa, non lo devi fare. Ma questo d'accordo, però tu pure hai detto, i miei uomini a una certa ora si girano tutti e se me lo tolgo che gli do? Diciamo che ho imparato ad apprezzare la mia specificità, cioè ci sono nel e sei più apprezzata per questo. Nel pianeta Terra la maggioranza sono donne, quindi se una vuole proprio la donna, ce l'ha. Esatto. Se uno vuole me, mi prende con tutti gli optional. E questo è un vantaggio, però. Perché non lo so se un vantaggio l'originalità e la specificità provoca attrazione, non c'è dubbio. E dai, questo bisogna ammetterlo, mica. C'è una parte di uomini che attratta proprio dalle persone. Se fossi solo donna, dai, non sarebbe. Non attireresti nessuno, diciamo la verità. Dai. Sì, poi dopo. Io ho avuto anche dei colloqui, insomma, con degli psicologi, e loro mi hanno detto che cioè generalmente quelle che si operano sono anche quelle che magari... Aspetta un attimo. Il segnale orario vi è offerto da... Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta La Zanzara. Secondo me dovresti provare il brivido trans, comunque è un'esperienza, sì. Se ti piace così, ma tienti questa roba qua, ti piace così, va bene. Allora, finalmente la Cassazione ne dice una buona, Parenzo, finalmente ne dice una buona. Riguarda sempre la Fiat, un lavoratore di Termini Imerese che fu licenziato nel 2008. Lo sai perché? Stavolta non perché sta fumando uno spinello come nei giorni scorsi, ma perché si stava guardando un film porno in pausa pranzo. Un film porno in pausa pranzo. Fu licenziato. Può fare quello che vuole. Beh, sì, però insomma, sai, comunque un film porno, eccetera, eccetera. Fino alla Cassazione siamo arrivati. Comunque, ragazzi, da oggi libera tutti, liberi tutti. Possiamo, durante la pausa pranzo, guardarci un bel film porno nei posti di lavoro. Accendiamo tutti i computer. Via. Berlusconi sembra tornato, sembra tornato. Anza, oggi sei proprio ma che tacchetta hanno fatto oggi? C'hai un sedativo? Che c'hai? Ma non voglio urlare. Che roba imbarazzante sei oggi. Non imbarazzante. Mi voglio arrabbiare perché ho capito, ma bisogna fare la radio. Cioè, non è che uno si deve per forza dire stronzate. Ma però. No, ma non è questo il punto. Berlusconi se con vuoi, una sì. Però posso dire anche no, stronzate. Non è un problema, non hai capito. Non c'è discussione. Berlusconi con una signora davanti all'amministratore di Forza Italia. Senti che sketch. Mi hanno detto, a lei le piace Berlusconi? Gli ho detto sì, è innamorata. Allora che fa? Famoso Bunga Bunga. Io ho detto, guardi, io non sono innamorata di Berlusconi, sono innamorata del suo cervello. Tenga qua, perché io la faccio innamorare anche del fisico. Ma lei è una gran bella persona, Presidente. Lei è pulito, Presidente. Sono gli altri sporchi. Grazie, signora. Signora, io la adoro. Guardi, Presidente, ma io l'ho detto a tutti, io sono innamorata di questo, di Silvio. E nel frattempo Berlusconi si è tirato, no? Si è aperto, la faccio innamorare anche del mio corpo. Adesso mi sono guardato nello specchio, mi sono trovato non particolarmente vecchio, o no? No? Senta che bella pelle che ho. Del 94. E ho detto, ce la puoi fare. Allora, siamo ancora con Vladimir Luxuria. Vladimir, ma siccome si parla molto in questi giorni, a te è mai piaciuto Berlusconi? No. No, non ci andresti con Berlusconi, no. No, sinceramente no, non lo trovo particolarmente affascinante, nemmeno di cervello. Come la signora, nemmeno di cervello. No. Io ci sono stata a cena, come si sa, insomma. Sì, certo. Quindi certo. Ho avuto modo di vederlo molto da vicino, ma. Ma un certo fascino anche a tanti. Ma non l'attrae. Mi piace altri tipi di uomini. Cioè. E per esempio, con i preti, cioè, sei mai stato con un prete? Si parla molto in questo. Posso dirti una cosa? Anzi. Sì. Se dovessi trovare un uomo che mi piace e poi mi dovesse dire che è prete, troverei la cosa poco estetica. Cioè, mi smonterebbe, non ho mai provato attrazione erotica verso perché non lo so, mi interessa, cioè preferisco altri tipi di categorie. Ma non ci hanno mai provato con te, sai, in questi giorni stanno uscendo un sacco di notizie su preti. Mamma mia, carmelitani scalzi e smutandati. Sì, carmelitani nudi, no scalzi, diciamo. più che scalzi, nudi e smutandati, diciamo. Guarda, sembra veramente una... A parte che vabbè, ci sono sempre stati episodi di scandali, di molestie sessuali, vabbè, certo. Ma mai così... Cioè, ogni giorno ce n'è una. Lo so, vengono fuori, non si sa poi quanto veri o presunti. Comunque. Ma insomma, quello là che si è dichiarato, secondo te che effetto ti ha fatto? Tutto finto, tutto costruito? Quello là che ha detto di essere gay, si è presentato col suo uomo, perché non si toglie la tonaca? Lui, io ci ho parlato con lui, ci ho parlato a lungo, anche al telefono, ci sentiamo. E gli ho anche chiesto, dico, senti, ma perché mi dicono... te ne vai? No, gli ho chiesto, dico, senti, dicono che qui è tutta... l'hai fatto anche per promuovere un libro per... sì, sì. E lui mi ha detto che in realtà non ha un centesimo, che non ha preso nessun soldo né da servizi fotografici né da libri, sì. E che è grazie al lavoro del suo compagno a Barcellona che sta campando, quindi io capisco che adesso si tende a smontare una persona che comunque ha fatto un gesto, che ha fatto molto. Ho capito, però se ne dovrebbe andare la chiesa, dai, su, coerentemente se ne dovrebbe andare. Che sta a fare nella chiesa con un compagno? Ma lui non ha mai protestato, cioè lui sapeva benissimo qual era. Ho capito, ma perché? Vuole ancora? Lui non sta dicendo io voglio rimanere in chiesa o non accetterò. Lui accetterà tutte le conseguenze. Ho capito, ma dovrebbe essere lui ad abbandonare la chiesa. Se tu ti fai un compagno e una relazione stabile, cioè. Sì, certo, perché ovviamente c'è il voto di ma non solo il voto di castità, ma comunque ti fai un compagno e tutto, hai abbandonato i principi della Chiesa. Adesso, oggettivamente è così, io posso. Lui ha fatto un camminato, lui poteva, tranquillo, come fanno altri, diciamoci la verità, farsi gli affari suoi e rimanere col suo bel lavoro di insegnante, di teologo, e fare l'ipocrita, come fanno tanti. Lui ha fatto un'altra scelta, ha fatto camminato, ho capito. Fatto in maniera. Sapendo benissimo che questo l'avrebbe portato intanto al licenziamento dalla sua professione. Vabbè, sì, eccetera. Sì. E lui aspetta che sia il Papa a pronunciarsi sul togliere il titolo di Monsignore, perché aspetta al Papa. Quindi ancora non c'è stato questo pronunciamento e lui sta aspettando. Vabbè, ho capito, però se ne dovrebbe andare da solo, dai, su. Ma che ci sta a fare nella Chiesa con questi dati? Dai, su, uno che fa. Dai. Lui, infatti, con il suo coming out ha abbandonato la Chiesa, nel senso che ha abbandonato il suo abito, i suoi ruoli, ma non la Chiesa in sé. Lui continua a essere credente. Ma no, la Chiesa non l'abbandona. La Chiesa non l'abbandona, è ancora prete. Non è che ha detto me ne vado da prete, mi spreto. Ma mica decide lui di togliere. Ma come no? Uno può decidere da solo di andarsene, come no? Ma già facendo coming out in qualche modo è come se avesse deciso di farlo. Senti, ma tu saresti in grado di tirare su un bambino? Si parla molto. Adesso sono troppo vecchia, secondo me. Sei troppo vecchia. 50 anni. Ma come glielo spiegheresti, che ne so, che c'hai quella cosa in mezzo alle gambe, se te la vede? A un bambino? Cioè, non glielo spiegherei proprio. A un bambino gli racconterei una favola, gli canterei una ninna nanna per addormentarsi, non mica gli racconterei queste cose. No, un bambino, a un ragazzo, che ne so, a uno che quando cresce a un certo quando punto... Quando cresce, sì, a un certo punto con il linguaggio adatto gli spiegherei che problema c'è. Ma ti sentiresti Guarda, in grado... c'è una parola che si chiama amore, che come diceva Dante fa muovere il sole e anche gli altri pianeti. Se a una persona gli vuoi bene, credimi, non conta. La tua dimensione sessuale non conta. No, ma io sono d'accordo, lo sai, al 100%. Sono d'accordo al 100% sulla questione dell'amore, ma tu ti sentiresti davvero in grado di tirarlo su, cioè di educarlo, eccetera, un bambino? Adesso io non mai penso, io sono una che mi piace la mia vita, la mia indipendenza, quindi non ho mai pensato dover... di diventare madre, padre, chiamatemi come mi vuoi, genitore, sì. Un'unica occasione, l'ho anche raccontata, io quando ho vinto l'Isola dei Famosi avevo devoluto 100.000 euro della vincita all'UNICEF e allora il presidente dell'UNICEF mi chiese di fare un viaggio in Mozambico per capire dove vanno a finire i soldi. In quell'occasione conobbi un bambino orfano, ma di tutto, non c'aveva niente questo bambino. Perché non te lo sei portato indietro? E questo bambino mi guardava con degli occhi, mi faceva vedere la sua casa fatta di il suo giaciglio di paglia, faceva tutti dei salti, faceva vedere che era un ragazzo bravo. Io non capivo lì per lì perché si faceva così bello davanti a me. Quando sono andata via nel furgoncino ho visto nello specchietto retrovisore mentre andavo via questo bambino che piangeva e il volontario dell'UNICEF mi ha detto: il bambino piange perché ogni volta che vedono una persona bianca loro sperano che è qualcuno che se lo prenda con lui. Dunque? Questa cosa mi ha tirato fuori dentro una cosa che non pensavo di avere, la maternità, un desiderio di prendermi cura. Se le leggi me l'avessero consentito, lo dico sinceramente, io me lo sarei portato. Non lo so se sarei stata una persona capace o meno di tirarla su, però in quel momento l'istinto mi diceva di portarlo questa via. È una creatura fragile, proteggila. L'ho sentita come una cosa naturale. E l'avrei fatto, sì, se le leggi me l'avessero consentito, l'avrei fatto in quel momento. Grazie Vladi, ciao, presto, ciao, ciao. A ciao. Voi. Allora, dove andiamo ragazzi, ascoltatori stasera? Marco Novara, vai Marco. Marco. Sì, ciao, volevo provare a spiegare a David l'eccesso di legittimo difesa. Sì. Se ce la faccio, perché è durissima. David, ci sei? Ce l'hai? Certo che ci sono. Dimmi in casa, ce l'hai in casa una mazza da baseball? No, forse baseball no. Con guarda, a casa ho punteruoli, coltelli, tutte le forchette. Perfetto, no, baseball coltelli con anche molto grandi, quindi okay, con delle lame pazzesche. Perfetto, beh, basta, vabbè, anche lei con il sufficiente. Una sciabola, ciò? La sciabola è per lo champagne, di la verità. Bravo. Ah, vedi che ho scavato. Fare lo champagne, bravo. Fare lo champagne, ecco, la chiave. Allora? Per esempio, tutti alle però tre di notte... essere un oggetto pericolosissimo quello lì, la sciabola. No, ma basta un ombrello. Tu alle tre di notte ti svegli, senti rumori in cucina, sì, prendi l'ombrello, sì, c'è il ladro girato di spalle che non ti sente, e sì, lo scassi tra noce e capocollo, ok? Sì. Questo cade per terra e sviene. Tu chiami la polizia, questo va all'ospedale e ti denuncia. Giusto, certo, normale. No, ma giusto un cazzo, che è giusto. No, aspetta, e ti denuncia. Giusto, ma giusto di che? Ti denuncia ma questo. Capisco, nel momento in cui ti denuncia, tu hai già speso 1000 euro più IVA e ti anticipo spese per il tuo avvocato. A meno che non è un avvocato amico che te lo fa gratis. Io mio padre che è avvocato, quindi mi mando tutto quel paese. Cazzo, Davide, mica tutti hanno il padre avvocato. No, sto scherzando, è ovvio che è così. È evidente che il problema c'è. Questa cosa, esatto, il problema c'è. Quindi, a prescindere dalle armi da fuoco, che non tutti hanno in casa un'arma da fuoco, il problema c'è. Io ho fatto il servizio di leva nei carabinieri e quando ti spiegano... Guarda che spesso i giudici archiviano anche, cioè non vanno neanche al giudizio. Chiaro, quando devi anche essere fortunato e no, quando si accorgono che la dinamica non è quella che magari necessita... Vabbè, che vuoi dire con questo, Marco? Non ho capito, spiegami. Io voglio dire che la legge sull'eccesso di legittima difesa dentro la proprietà privata è fondamentalmente sbagliata. Ma è quello perché, che dico io, perché è evidente che chi ha da perdere, volevo farglielo dire anche a David. Chi ha da perdere è sempre quello che subisce, perché esatto, paga, perché può subire un furto, esatto, eccetera, eccetera. Gli altri, esatto, con le leggi italiane, cioè i ladri, spesso la fanno franca. L'altro giorno hanno liberato immediatamente, senza nemmeno, non hanno nemmeno incarcerati, dei nomadi, non mi ricordo dove, dopo ve la racconto, prima c'è la pubblicità. Vabbè, ma Parenzo lascialo perdere, che io gli voglio bene a Parenzo, ma non ci capisce in casa. La Zanzara. Lei che è un incompetente, maiale, cioè non capisci. Allora, la cosa incredibile di cui stavo parlando prima è accaduta a Padova. Vanno a rubare con la neonata, ma niente galera per il clan Rom. Mm. Dopo un colpo scappano dalla polizia a 150 all'ora. Un sedicenne alla guida. A bordo c'erano una bimba di 8 mesi e altre persone. Il giorno dopo liberi. Ovviamente la bambina pure è rimasta con loro. Liberi forse perché quello è minorenne. No, ma liberi tutti, lascia perdere, certo non minorenne, liberi tutti liberi. Sì, perché è minorenne, perché sennò c'erano galera. Vari precedenti, no, ma c'erano anche altri adulti. Vari precedenti per guida senza patente, possesso di arnesi con scasso, furto, resistenza al pubblico ufficiale, cioè tutto questo non è stato sufficiente per farli rimanere in galera, non dico un anno, so, qualche mese di galera, così. No, no, certo. Per allenamento, no? Poi si erano usciti da casa e si erano portati dietro la ragazzina per andare a rubare. Poi nessuno ha detto niente, questa ragazzina piccola, questa bambina di 8 anni. Cioè fanno un colpo, vanno a 150 ore e mezza alla strada, vengono inseguiti, presi, mi hanno precedenti. La bambina sicuramente. Hanno precedenti, niente, tutti liberi. Io non è che voglio tutti in galera per forza, tutti in galera, perché altrimenti dovremmo costruire 200 altre carceri in più, non è possibile, no? Tutti in galera. Però quando ci sono molti precedenti, eccetera, qualche mese di galera può fare comodo, no? Magari ti rinfresca un po' le idee. L'altra cosa che mi fa incazzare, oggi Napolitano ha risposto sui suoi privilegi dicendo che li usa in modo limitato, i privilegi che comunque ha varie persone al seguito, eccetera eccetera, ma pare? Ma scusa, ma è interessante però che la campagna la facciano contro Napolitano, no? Ma a me non mi interessa, cioè, chi fa la campagna contro Napolitano. No, no, a me interessa contestualizzare quel che succede invece per spiegarlo, perché sì, sennò... ma la cosa è molto semplice, è vero... Quello che succede è Napolitano ad alcune, al centro-destra in particolare, ha un certo tipo di stampa, Libero e Il Giornale. No, ma guarda che è Il Fatto che fa questa cosa, anche Al Fatto anche Quotidiano. Il Fatto, per cui che cazzo dici? Cioè, dicendo che ha un certo tipo di Gli sta sulle palle Napolitano. Sta sulle palle Napolitano, perché? Perché credo che Napolitano abbia messo su Renzi, abbia fatto un gol e tutte le cose. Ma questo qua è quello che c'è dietro. A me interessa Il Fatto, a me interessa la realtà delle cose. La sostanza è che tutti i presidenti della Repubblica, ma tutti in Italia, in Italia hanno questi, gli altri stanno a spasso, gli altri in altri paesi stanno a spasso, basterebbe cambiare la normativa e basterebbe che anche gli amici di Forza Italia che contestano il signor Berlusconi, il signor Napolitano, basterebbe che questi presentassero una proposta certo, di legge, non c'è dubbio, cambiare, cosa che invece non fanno. Vabbè, ma questo va bene, io ti sto dicendo semplicemente, infatti non ne faccio una questione politica, chi lo fa o chi non lo fa. Sì, è vero, ha troppe wifi gratis. No, ma pare che nella Costituzione, all'articolo 40 del disegno di legge di La Boschi appena approvato, c'è un articolo che sostanzialmente è stato ribattezzato comma Napolitano, che blinda tutte le prerogative di Napolitano degli ex presidenti della Repubblica, 600.000 euro l'anno di appannaggio. E, tre funzionari, due addetti ai lavori esecutivi, due addetti ai lavori ausiliari, un consigliere diplomatico militare, un capo ufficio stampa, eccetera eccetera eccetera, tutto quello che abbiamo elencato ieri, tutto questo è blindato nella Costituzione, perché le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Cioè, in sostanza, cioè, viene messa in Costituzione il fatto che questi privilegi restano in questo modo. Cioè, io non posso sopportare che uno diventa ex e continua a prendere soldi dallo Stato. Quando diventi ex non pigli più un euro, non devi prendere più un euro, né vitalizi, né pensioni, né appannaggi. Diventi ex e vai a fare come ha fatto in Germania Schröder, l'ha diventato consulente di Putin, meglio consulente della Russia che pagato dallo Stato. Beh, meglio sì, consulente della Russia. Lo ha fatto peraltro, quindi getta un'ombra. Ma anche va sulle benissimo, va benissimo. Diciamo. Allora, eravamo con Marco da Novara, per con Marco. Tra l'altro, quando diventi ex è come le mogli, prendi un sacco di soldi, quindi. Ma sì, esatto, tra l'altro. Noi siamo i mariti invece che ce la pigliamo di dietro. Sempre. No, però voglio dire a questo gentile ascoltatore che vuol farci ragionare sulla legittima esercizio. Sì. In realtà quella norma è stata già cambiata, perché anni fa, nel 2006-2007. Ma evidentemente non abbastanza. Sì, però, no, già abbastanza, e non sapete nulla ancora una volta. No, lo so, Davide, sa tutto lui. Basta leggere. Dipende anche dal giudice da cui capiti. Esatto, vabbè, questo è un altro discorso. La normativa è già stata cambiata. Se capiti da un giudice che quel giorno dice, no, perché tu sei in casa tua, lo dico anche a tutti quei potenziali pistoleri che ascoltano la trasmissione. Ma non ce n'è di pistoleri. Se sei in casa e vieni aggredito e in casa hai un'arma denunziata regolarmente. Vabbè, allora? E ti difendi, non ti succede nulla. Non è vero, non no, è così. Non sapete niente. Vabbè, nel momento in cui tu gli pianti una pallottola nella spalla. Non mi stupisce, ma continuare a ripeterlo. Marco, tu scusa, Marco, che cosa hai fatto nella vita? Tu che cosa fai? Guardate, allora, io faccio il tecnico informatico, però come militare ho fatto il carabiniere, visto che non sono stato riformato. E l'esempio che fanno al corso è proprio quello che è tipico, no? C'è un malvivente con un coltello, se il carabiniere estrae la pistola e gli pianta una calibro 9 in quella cazzo di testa, il carabiniere finisce sotto processo. Ma è chiaro, e passa i guai. Intanto avete già allargato la dinamica a un'altra cosa. È evidente che il carabiniere, che peraltro è un funzionario dello Stato, nell'esercizio dell'uso della forza deve essere sinceramente. No, Davide, io non so misurato. Se possiamo anche non discutere, semplificare l'argomento dicendo che si può anche semplificare l'argomento come ci piace fare, dicendo è possibile fare qualunque cosa. Davide, semplificare, semplificatelo, ma non è così. Sei mai andato al poligono a sparare? Non sparo io. Perché mi ci hanno obbligato, tu sei stato riformato, invece io sono stato obbligato a perfetto, io nel momento in cui ho preso in mano la pistola e ho sparato il primo colpo mi sono cagato addosso, appunto. Vabbè, ma comunque, ragazzi, questo non significa nulla. La verità è questa, che nonostante evidentemente tutte le modifiche di cui parla Parenzo, ci sono ancora molti casi in cui se uno ammazza una persona dentro casa, dipende dalla dinamica. E magari, ma certo, anche se è una dinamica, metti che gli spara più colpi del dovuto, passa i guai. Luigi da Monza, vai. Luigi. Vabbè, certo. No, certo, un cazzo. Luigi da Monza, vai. Allora sparate liberamente. No, sparate. Cambiamo le leggi per eliminare la possibilità che uno possa avere guai, se ammazzi una persona dentro casa. Ma non esiste nessun ordinamento una roba simile. Sì, esiste, esiste. Se esiste, dovrà esistere. Se esiste, dovrà esistere. Luigi da Monza dovrebbe esistere. Uno deve ragionare sempre a ribasso. Luigi da Monza, vai. Sì, ciao, buonasera. Pronto? Dimmi, Luigi, dimmi. Sì, niente, io sento tutti questi discorsi, tutte queste cose, però cioè la cosa che mi fa impazzire è che il motivo di tutta la delinquenza e tutte le cose è uno solo, no? È il denaro. Si fa tutto per il denaro. Noi che cosa possiamo fare per evitare, invece di carabinieri, forze dell'ordine, guardie giurate, eccetera? Cosa? Eliminiamo i contanti. Cioè oggi riusciamo a fare tutto in elettronico, facciamo tutti i pagamenti in elettronico, 0 a 10 milioni di euro. Cioè, perché aumentare il limite dei 3.000 euro? Ma a chi gliene frega niente di andare a pagare 1.000 euro o 3.000 euro in contanti? Beh, io infatti la penso così, cioè, qualcuno dice finché c'è una tassazione così forte è giusto che uno faccia un po' di nero, è giusto che uno faccia anche un po' di nero. Guarda, a me non me ne frega niente, per me dovrebbe essere tutto, si dovrebbe pagare tutto con la carta di credito. Cioè, il fatto che è vero che ci sono molti paesi in Europa dove però l'evasione fiscale è bassa, dove non esiste nessun limite all'utilizzo dei contanti, esiste in 3-4 paesi, oggi ho letto uno schema, non mi ricordo dove, esiste in 3-4 paesi, tutti gli altri non c'è nessun limite, però sono paesi in cui la gente è virtuosa. Cioè non c'è evasione sostanzialmente. Stati Uniti, che l'evasione fiscale è zero, non si può pagare niente in contante. Se tu facci un euro o un dollaro in un bar, ti guardano male. Ma no, non esagerare adesso. Che c'è la pistola dietro. Perché ma che ho pagato mille volte in contanti negli Stati Uniti, che dici? Dai, Luigi, ciao, ciao. Guardate che vengo lì di pigliarti in culo. La Zanzara. Super intelligente, ma c'è nato super intelligente o c'è diventato con la trasmissione che fa? Non lo so, me lo chiedo. Oltre a Bianconi c'è un altro aretino che è una specie di mito in questi giorni in giro per il web e non solo in giro per il web. Si chiama Ezio Capuano, detto Eziolino Capuano, allenatore dell'Arezzo Calcio. Un tipo molto verace, per chi non l'abbia mai sentito, adesso vi offriremo alcune perle di questo signore che ha chiamato pezzi di merda i suoi giocatori nello spogliatoio perché è stato registrato, e io non me la prenderò mai con chi registra questo tipo di telefonate, è stato registrato da un suo giocatore ha messo il registratore nello spogliatoio e ha preso le sue parole, e le parole sono queste: il primo che piaccia giro sui figli di calcio contro una squadra di promozione, vergognatevi, voi non siete degni! La squadra di promozione! Io vi squarto! Se voi avete deciso di giocare con la mia famiglia, io vi squarto! A quanti chiusi da sta! E poi con Arezzo non c'entra un cazzo, come avete sentito dall'accento. Io mi squarto. Ma ha fatto male a registrare, scusa. Questo. Ma chi ha fatto? Ma l'ha fatto benissimo, dai. Ma anche perché non c'è. Ha fatto malissimo. Se registrassero le riunioni di redazione o quando uno va. Ma non è la stessa cosa, non è che è ha detto. È identica. Ma non è, dai, su. Ma sì, è identica. No, non è identica. Se registrassero le riunioni alla. Ma ha detto vi squarto, non siete degni, dai, non è che ma ha detto. Ma è una riunione di lavoro, hai vietato registrarle. Merde umane, senti quando dice merde, siete delle merde umane. Quello ma non si può fare, non poteva. Ho capito, uno gli ha detto merde umane, quello sei incazzato. Io ho 50 anni, queste figure di merda non le fai parte. Mi dedichi a chiedere pure te, voi siete una banda di pezzi di merda. Oltre che siete lo scandalosissimo, qual è chi di voi? È chiaro? È chiaro? Voi siete delle merde umane! Action! Poi ha detto ancora siete lo scandalo, vergognosi. Ma quello è un coach. Aspetta, siete capaci solo a parlare, vi scanno se perdete. Sentite questa, sentite. Ma questa. Giù è un motivatore. Sì, motivatore. Figure di merde come queste nella mia vita non ne ho mai fatte. Nessuno che si permetta il premio da già spanda! Il premio che vi ho portato voi qui a fare il tuo! I vescani si mettono la carta adesso! Vi giuro sui figli vescani! Ne metto 10 fuori lista! Vescani! scanna, ve scanna. Ma è un modo di dire, dai, adesso non facciamo troppo. Vabbè, io non faccio nessuna morale, per carità. Non fai mai morale. No, Capuano ha detto una cosa, non è la prima volta in realtà. Pubblicamente, non con una telefonata registrata, disse anche un'altra roba, che non vuole checche in campo. Adesso mi raccomando. Come Al Pacino in ogni maledetta domenica. Ah, uguale, stavolta dai. Non ti scandalizza le checche in campo, eh? Ma non no, ti scandalizza. Ma come Al Pacino? Ma certo, perché è un contesto quello dello sport. Aspetta, fammi sentire le checche in campo. Prendere gol in superiorità numerica al 90° è vergognoso, quindi non lo accetto, avrei perso in maniera diversa, non ho mai detto nulla, però in campo le checche non vanno bene, in campo devono andare gli uomini con le palle. In campo devono andare gli uomini con le palle, non le checche, non le femminucce. Ha preso pure il tapiro, eccetera, eccetera. No, non mi scandalizza per niente, perché nelle riunioni di redazione si dice molto di peggio. Poi, quindi, prendendo il tapiro, Striscia la Notizia, ha detto chi fa la spia non è degno. Io ritengo che chi fa una cosa del genere, per me non deve giocare più a calcio, cioè uno che esterna fuori dallo spogliatoio quello che accade, penso che non è degno di scendere su un... Perché chi gioca a calcio sa che nello spogliatoio le cose si dicono ma rimangono... Poi la cosa più grave è che un allenatore comunque ha 50 anni, 40 anni, essere deriso da un bamboccio di 20 anni o da più di ragazzi non è una fase corretta. Io chiamerei il presidente dell'Arezzo, che si chiama Ferretti, ed è una specie di Lotito, cioè uno, uno che si occupa di pulizie. Ferretti, presidente dell'Arezzo, che ne pensa del suo allenatore, di quello che ha diffuso l'audio? Chi parla? Ferretti, qui Radio 24, buonasera, come sta? Bene, grazie. Senta, che facciamo con questo Capuano? Lei chi è, scusi? Mi chiamo Cruciani, buonasera. Oh, Cruciani, ma io sono un suo sostenitore. E io pure sono un suo sostenitore. E io sono Parenzo, invece, un suo detrattore. Come... Parenzo, no, è troppo bella sta cosa. Io tutte le sere vi ascolto. Beh, noi la ringraziamo molto. Noi la ringraziamo. Entriamo in confidenza. No, ma allora, questo allenatore ha fatto bene, ha fatto male avere quella reazione nei confronti della squadra? L'allenatore è genio e sregolatezza. Sì. È una bravissima persona. Sì. I giocatori lo sanno bene com'è. Gli vogliono anche molto bene, questa è la verità. Però scusi, uno che dice vi scanno, vi squarto. Amico mio, quello abbiamo sentito, no? Ma quello è un suo modo di essere, di fare. Cioè, è normale dire pezzi di merda ai giocatori? No, vabbè, non è normale. Però dipende sempre uno, chi lo dice, come lo dice. Se uno lo dice con cattiveria, con rabbia, perché proprio ti odia. Non è il personaggio, credetemi. Vabbè, poi io voglio sapere una cosa. Ma ha sbagliato il giocatore a registrare quella cosa? Verrà cacciato, verrà messo fuori rosa? Allora, il giocatore è già fuori rosa. Ha sbagliato in un senso, è giustificabile sotto un altro aspetto, perché è un ragazzo giovane. Lui ha sbagliato perché l'ha mandato così. Lui doveva dire al mister, quando si è reso conto, senza mandarla per le lunghe, gli doveva dire: mister, posso dire una parola un po' così, tanto voi le dite, no? Ecco, ho fatto una stronzata. E invece l'ha mandata, l'ha diffusa? Ecco, l'ha diffusa, ma anche quando l'ha diffusa, se lui diceva ho fatto questa stupidaggine, il mister 2 minuti gli avrebbe fatto tutto quello che avrebbe fatto, e poi oggi sarebbe stato nelle grazie di tutti quanti. E invece che ha fatto? E invece ha insistito. Per cui è fuori rosa e verrà venduto. Che facciamo con questo ragazzo? Questo ragazzo ce l'aveva dato in prestito il Carpi. Sì. E al Carpi tornerà. Già c'è un precedente, che è quello delle checche. Cioè, non voglio checche in campo. Lo so. Io ne ho pagato le conseguenze. Quindi mi sono scusato anche con l'Arcigay pubblicamente. Pure. Perché io sono molto liberale. Ferretti, il tecnico lo teniamo, giusto? Nonostante pezzi di merda, vi squarto, checche, tu lo teniamo. Il tecnico gode di tutta la mia fiducia. E invece cacciamo il giocatore. Il giocatore che ha registrato, che ha registrato l'insulto, eccetera, eccetera, lo cacciamo. E il tecnico, pezzi di merda. Da che vi squarto, no. Lo teniamo. Dai, lo sai perché lo cacciamo? Perché allora lo spogliatoio non va violato assolutamente. Però secondo me è un grande questo qua, perché ci ha fatto sentire per la prima volta un tecnico come tratta i suoi giocatori quando perdono. E magari gli altri non saranno uguali, perché magari Capuano da questo punto di vista è un po' più, no? Un po' più verace. Però per la prima volta Capuano è verace, questo è il termine vero. Diciamo Capuano è un verace. E il problema è che ci piacerebbe allora vedere negli altri spogliatoi, anche delle serie quelle nobili, serie A, serie B. No? Cosa succede? Lei mi deve fare però un regalo, mi deve mandare ospite una sera, signor Capuano, così lo facciamo licenziare noi direttamente. Cioè, se lei mi manda ospite, signor Capuano, ospite qui alla Zanzara, combiniamo la bella frittatina e così lo cacciamo. Se lei ha bisogno di cacciare, signor Capuano, si rivolga a me. Vediamo. Lo faccia venire ospite alla Zanzara una sera, signor Capuano. E poi, lei può stare sicuro che il giorno dopo sarà costretto a cacciarlo. Si dimette. Va bene, grazie, grazie, arrivederci, sì, presidente. Grazie, grande, a voi, grande. Arrivederci. Allora, Lisa da Foggia, vai Lisa. Buonasera Cruciani. Dimmi. Allora, Cruciani, solo una domanda. Sì. Lei ha preso un caffè con un suo collaboratore? Ma sì, sì. Perché? No, mi chiedevo se magari qualche volta... Aspetta, ma lei ha un auricolare strano? O un auricolare oppure in viva voce o cose del genere, o no? Sto parlando col telefono normale. Vabbè, allora? Adesso. E se dice, chiedo scusa Cruciani, devo consultare il telefonino e magari si guarda qualche scenetta porno. Lei cosa farebbe? Ma nulla, nulla, beato lui. Cioè, se ha voglia di guardare un film porno durante gli orari di lavoro, qual è il problema? Qual è il problema? Durante l'orario di... Ma qual è il problema? Ognuno è padrone del proprio tempo. Ognuno è padrone del proprio tempo, a meno che uno non utilizza degli strumenti aziendali. Insomma, ci sono varie cose. Aspetti un attimo, ferma lì. La Zanzara. Tipi da Zanzara. Tipi da Zanzara. Allora, Andrea D'Arieti, vai. Ciao, magici. Dai, dimmi, dimmi. Ciao, ciao. Senti, io avevo chiamato per Marino. Sì. Però tanta la situazione a Roma non la cambia nessuno, Crucià. In che senso? Senti. Io so quello che va a prostitute una volta a settimana, ti ricordi? T'avevo chiamato un po' di giorni fa. Ma io che ne so, non è che mi posso ricordare che tu vai a prostitute una volta a settimana. E vabbè, senti, allora sono stato sulla stessa casa e dove vado spesso. Sì. Perché di solito ci stanno sempre belle fighe. Sì, ma vabbè, una casa che vuol dire in queste, una di una queste casa d'appuntamento, una casa. Ma che esistono le case di appuntamenti clandestine? Certo, certo. Allora? E allora senti, io vado davanti, arrivo davanti alla porta. Sì. E mi apre una bella mora. Sì. Che mi dice che è venezuelana. Sì. Vabbè, entro, questa qua comincia a spogliarsi, si tira giù il reggiseno. Sì. C'ha due belle sinne cruciate. Che... Vabbè, dai. E vabbè, poi si gira di schiena. Sì, vabbè. Vabbè, non è che adesso donna, mi vuoi raccontare donna. Cose nel dettaglio, il rapporto sessuale che hai avuto con questa qua, no? Aspetta, ma no, certo, penso. E praticamente, vabbè, c'è un perizoma nero di pizzo. Sì. E poi c'è un culo che te lo dica a fare, Luca. Questo è inutile sottolineare. Però aspetta, perché poi si gira. E Crucia, guarda, te lo giuro sui figli mia. Sì, vabbè, c'aveva un pacco postale. Da fa invidia, guarda, mi faceva invidia pure a me. Era un trans. Vabbè, era un trans, e allora? Sì, era un trans. Allora a quel punto lo sai che ho fatto? Che hai fatto? E gli ho detto, mi sono sbagliato. E mi giro e me ne vado. E me ne sono andato. Allora mi sento che questa qua mi pigliava in braccio e mi dice, fermo, aspetta un attimo. Sì. E che fa questa? Mi tira giù i calzoni e crociato, giuro. No, vabbè, stiamo calmi. Sto calmo. Allora? Mi comincia a fare un sesso orale che io te giuro non l'ho mai provato in vita mia. È una questione che quando io, siccome ti avevo detto l'altra volta che le vado a vedere su internet, le zoccole le cerco su internet, che quando accendi apri internet, accendi il computer, e praticamente prima ti scappano giù tutte le fighe e poi alla fine trovi trans. Allora? Siccome a me mi piace troppo la figa, anche se ho l'idea di andare con trans, però mi ferma la figa. Vabbè. Perché sta prima, capito? tipi da zanzara. Qualcuno mi suggerisce, sembra la canzone del Califfo, te la ricordi la canzone del Califfo? Cioè l'esperienza di Andrea D'Arieti sembra una famosa canzone del Califfo che fra poco recupereremo, che è quella famosa sul transessuale, famosissima. Eravamo con Lisa da Foggia, vai Lisa. Vai Senti, Lisa, guarda, dimmi. Io dopo che ascolto la telefonata di quel signore precedente, mi chiedo, il tuo programma non dovrebbe chiamarsi La Zanzara, è una linea erotica gratuita. Beh, ma sarebbe veramente il top comunque, Sarebbe veramente il top, piacerebbe anche a lei. Lei sarebbe molto più attenta in questo caso, guardi, sarebbe molto più attenta. No, non penso. Sì, sì, sarebbe comunque, molto più attenta lei, molto più attenta. Ma quanti anni ha lei, signora? 15 anni, senti, io... Quanti anni ha lei, signora cara? Lisa, quanti anni hai? 50 anni, potrei essere sua madre. Ma che tua madre? Senti, siamo coetanei, siamo, che stai a dire? Sei matta, sei? Ti ho fatto un complimento. Allora, senti, Luciano, tu devi sapere una cosa. Sì. Io sono cattolica. Molto e cattolica. E ho dei limiti. Sì. Sappi che io per te sto pregando. Io spero che il Signore ti converti come ha convertito Paolo sulla via di Damasco, sì, facendolo cadere da cavallo, sì, non ti preoccupare, tutto, scusami, sono un po' emozionata, però ti voglio dire, come si fa? Cioè per te il mondo reale, sì, è quello tanto che tu decanti, cioè quello della... del sesso sfrenato, quello di non aver limite pure nella propria intimità, sì, tu vai sempre alla ricerca della provocazione, ma se tutti la pensassero come te, il tuo pensiero sarebbe inflazionato. E secondo me tu ma mica tutti la devono pensare come me, tu dicendo questo quante volte litighi con i radioascoltatori? Cioè, mi spieghi un attimo questa cosa, ma veramente stai pregando per me? Preghi per me? Sì, ma sì, come preghi per me? Dimmi una cosa, come preghi? Perché io prego, dico Signore, ti prego, converti il Cruciani affinché creda nelle tue parole, in quello che tu hai detto, l'amore, il Signore ha parlato dell'amore, no? Dell'amicizia, sì, tante cose, il Signore ha parlato di tante cose. È inutile che preghi, cara, guarda. No, io ho fiducia nella preghiera, ma Sant'Agostino era un donnaiolo, un peccatore, e si è convertito dopo le preghiere della mamma che sono durate 40 anni. Ho capito, ma Sant'Agostino è Sant'Agostino. Non dovrei augurarmi che anche Cruciani, un indomani invece della Zanzara, non faccia una trasmissione tipo quella di Brosio, no? No, che parla, guardi, delle meraviglie. Mi guarda, sembra, no, francamente, Cruciani, un percorso quasi impossibile. No, guarda, io prego perché ti dia salute, perché tu stia bene, sì, e perché tu anche fra 20 anni possa predicare il contrario di quello che stai predicando adesso. Scusami, perché Lisa, tu non ti rendi conto, ma stai predicando. Che sto predicando? Stai predicando il male. Ma che male è? Quale male è? Qual è il male? Il libertinaggio? Cos'è il male? Cos'è il male? Il sesso sfrenato di cui dai la possibilità, ma il problema di parlare è che tu come quello precedente. Ma il problema è che tu non l'hai mai fatto, tu ne fai poco, troppo poco ne fai. Ma ti rendi conto di quello che ha detto l'ascoltatore precedente? Ma no, me ne rendo conto, certo, ha raccontato una sua esperienza con un trans. Ma l'ha raccontato, lo raccontava l'amico, ma non alla radio. Aspetta, Lisa, senti questo, resta lì, prega per me nel frattempo, resta a pregare, poi mi dici la preghiera che fai, però, perché magari serve anche a me. Leonardo da Brescia, ho letto semplicemente una piccola scritta sotto Leonardo da Brescia. Leonardo, dimmi. Sì, buonasera. Vai, dimmi. Buonasera. A me è capitato qualche sera fa di fare un pompino transessuale. Di fare tu? Sì, io. Vabbè, ma... amico mio, ma dai, cioè, sono anche le 27. Parenzo, reagisci anche tu di fronte a questa cosa. Di fronte a questa cosa, reagisci. Ma sai come la penso, fai appello a Squinzi. Cioè, ma fai, cosa vuoi che dica? Così, fai una cosa su Squinzi, guardi, alle 27 siamo su orario di Confindustria. Fai un appello anche tu. Ma no, ma io piacerebbe vederli in faccia questi, perché poi io risulto quasi bacchettore, cosa che non sono assolutamente nella mia vita privata. Questo qua ci sta raccontando, non so quanto sia vera la cosa, che ha fatto un... No, verissimo. Ma tu non sfrugogliarlo ancora, scusa. A non sfrugogliarlo ancora. Ormai ha chiamato. Cioè, questa è la realtà. Allora, Leonardo, volete racconto? Ma no, ma racconta che cos'è che ti ha portato a fare questa roba? Ma guarda, sinceramente non so nemmeno io. Era una serata un po' alcolica, ero con un amico. E usciti dalla discoteca siamo andati a puttane. Sì. Ma io, convinto della mia eterosessualità, non mi è mai capitato di avere pulsioni per un uomo. Sì, sì, sì. Qualunque. E niente, ci fermiamo, scegliamo la prostituta, sì. Saliamo e io sono il primo ad entrare in camera sua. Quindi la pago prima, andiamo a letto, lei si spoglia tranne le mutande. Ma come, quella, certo, come quell'ascoltatore punto... in pratica, cioè si sono sbagliati tutti, dai, non diciamo questa stronzata, l'hai scelto, sì, deliberatamente, dai. Certo. No, dai, no, no, credimi, adesso si sono tutti sbagliati, io per sbaglio, quello succedeva a Califano anni fa, a Califano anni fa poteva accadere. No, ma perdonami, ma lei ha famiglia, immagino, no? No, per famiglia intendo comunque papà, mamma, fratelli, sorelle. Chiaro, cioè, chiaro. Da qualche parte sono uscito, sì. Ma qual è il problema? Sta raccontando una sua cosa, evidentemente. Io mi meraviglio di questi qui che hanno un pudore, cioè come dire, un senso di sé talmente basso. Scusami, Davide, però ma lo sai che io su questa cosa qua non ti capisco, perché la realtà è che la televisione, tu sei il primo a doverlo sapere, ha una dose di esibizionismo. Cioè, se non ci fosse l'esibizionismo, io e te non faremo. No, aspetta, io e te non faremo un cazzo né la radio né la televisione. Sì, dunque, sì, puntiamo sull'esibizionismo delle persone. Che l'esibizionismo si sfoghi nel raccontare una vicenda politica o nel dire una stronzata politica o nel raccontare una vicenda personale, io la non capisco la differenza. Mi affascina è esattamente questa. Cioè, no, è il bacchettonismo che dice: cazzo, io non posso dire una stronzata politica, la posso dire. Ma una cosa che riguarda la mia vita, no. Ma no, sempre. Ma io non sono bacchettoni in nulla. No, il bacchettonismo, il senso del pudore. Io ho, sicuro me lo chiede a me, io non rispondo perché. Ma no, ma lascia perdere il fatto che tu devi rispondere. Perché non risponde, no, ma tu critichi il fatto che Leonardo sta raccontando questa sua esperienza. Ma anche da un certo punto di vista. È Leonardo e i tanti Leonardo, e cosa spingono i Leonardo a raccontarci questi? Vuole raccontare a una persona che sente vera, vicina, come me in particolare, vero Leonardo, una sua esperienza, dato che abbiamo raccontato dei transessuali, la loro vita, cosa fanno, cosa non fanno, il sesso, non sesso. Si sentono vicini a questa trasmissione. Non hai capito un cazzo. Cioè, si sentono vicini a questa. Tu, a te. No, non hai capito. Non hai capito. Mi affascina la mente. Quello che spinge queste simpatiche persone, adesso te lo racconta lui, Leonardo, a togliersi le mutande. Posso raccontare? Dimmi. Stiamo disquisendo un po', cioè, nel senso. Vabbè, facci decidere a noi però su cosa discutere. Come? No, stai qui a parlare perché? Sono qua a parlare perché no, volevo raccontare questa cosa. Non so neanche perché mi sento di raccontarla. Sinceramente seguo il vostro programma, vedo che c'è libertà di parola, bravo, libertà di espressione. Bravo, bravo, è così, e deve essere sempre così. Vabbè, ma questo non ho detto che sei esibizionista, ho detto semplicemente che in ognuno di noi c'è una vena di esibizionismo. Poi non ti sto invitando a fare, di andare dallo psicologo, sto dicendo semplicemente, psichiatra. Sto dicendo semplicemente che in linea generale è così. Poi raccontami quello che è successo allora, per andare al sodo, dai. Niente, esatto, ero a letto con lei, barra lui. E alla fine mi fa: ma tu cosa vorresti fare? Beh, ti ho pagato, voglio scopare. Mi fa: perché io non sono operato? Io questo, ripeto, non mi ero accorto di questa cosa. Ho fatto, mettiamola come così. Credimi. Comunque ho messo poi la mano nella zona pubblica che aveva ancora sulle mutande, ho sentito il riconoscimento, la protuberanza, ho capito a quel punto ovviamente era eclatante. E allora? E allora ho detto: vabbè, niente, facciamo lo stesso, ho pagato, eccetera, girati, e l'ho inculato. Vabbè, hai avuto un rapporto anale con questa persona e dopo? Esatto, poi successivamente si alza, mi fa stendere, si avvicina col ventre. Vabbè, hai fatto quello che hai fatto, e come ti è venuto in mente di fare quella roba lì che non avevi mai fatto? E questo è il punto, come ti è venuto in mente? Non lo so nemmeno io. Vai da un analista adesso vai da un analista. Ma no, ma cosa vuol dire? Non ho mai avuto questo tipo di trasporto. Domani vai da un analista, vai da un analista domani, o da un sessuologo. Parenzo, da chi lo mandiamo questo qua? No, ma questo, ma no, io secondo me non è neanche bisogno di un psicologo. Io non ci vedo così. Se lui si è divertito, può condividere, credo, con ma la magari sua... ha avuto un trauma, sei rimasto traumatizzato da questo? No, non mi pare. Assolutamente no. Ma perché no, io nella mia fossi testa, lui a so questo punto, spiegare, ma... No, ma fossi lui a questo punto, condividerei questa cosa anche con la fidanzata, magari porterei anche la fidanzata. Ma no, sei fidanzato, vedere. Leonardo? Sì, sono fidanzato. Vedi, certo, questo lo sa. Ho capito, ma la fidanzata magari allora ti sta ascoltando, ma te l'ha detto? Gliel'hai detto che sei andato con un trazzo comunque prostituto o no? Le ho detto sì, che prima di conoscerla ero andato, non le ho detto cosa ho fatto, le ho detto solo che mi è capitato di stare con un transessuale. Ma sarà contenta che adesso lo racconti. Va bene, Leonardo, ciao, ciao, ciao. In faccia era più liscio della cera. Che barba s'era fatto quella sera. Era una bomba, infatti mi sono detto, non so più io se non la porto a letto. Tutto sembrava fuorché un travestito, perciò come lo stronzo son boccato. Credendo pure a tutte quelle scuse quando mi disse no, so le mie cose. Per conquistarla io la rispettavo, aspetto che guarisca, mi dicevo. A questa sì che gliela do una botta, questa non è la solita mignotta. E matteggiavo a gran conquistatore, questa la porterei pure all'altare. Così partì con un po' di tenerezza, mai fatte in vita mia tante carezze. E mi raccomando, pregate. Ciao, arrivederci, un abbraccio. La Zanzara. Lisa, hai pregato? Sì, nel frattempo sì, ho pregato per te. Che tipo di preghiera fai? Comunque, dimmi che tipo di preghiera fai. Ogni tanto mi capita di ascoltare la tua trasmissione, non sempre, ma ogni volta per me è un nervoso, guarda. Che voglio parlare, vorrei tanto starti vicino, davvero, e guardarti negli occhi e dire sì. Ma ti rendi conto, Luciani, che la tua trasmissione è gonfia di vuoto? Che si dice tanto e che non lascia niente. Non lascia niente. Ma d'altronde non lascia niente, io comunque penso che è lo stesso vuoto che è dentro di te. Ed è per questo che io prego, perché quel vuoto si possa riempire. Sì, che sì, tu come sì. San Paolo possa cadere da quel piccolo gradino che ti sei creato. Sì. Come santone dell'omosessualità, del sesso sfrenato, della mancanza di valori, ma i valori veri, sì, quei bei valori che ti riempiono il cuore. Sì, ma io vorrei sapere, ma a te cosa ti fa felice? Questa è una bella domanda. Facciamo una preghiera insieme, magari inizio un percorso, ti prego, facciamo una preghiera insieme. Sì. Scusami, Cruciani. Non mi dire niente, la stavo cominciando a fare, però poi ci ho pensato. Perché no? Non è così la preghiera, non voglio, no, non per altro, pregherò per te, ma ascoltare. No, ma facciamolo insieme, dai. No. No, ma magari succede qualcosa, c'è uno scatto di qualcosa. Ma che scatto? No, il Signore opera, se non è. Ho capito, opera, ma che vuol dire opera? Non la voglio fare, credimi, la faccio appena chiuderò il telefono. No, ma bisogna farlo così in maniera come dire, trasparente. Lo so, no, sarebbe motivo di ironia da parte tua, francamente. No, ironia, non voglio fare ironia, prego. Il Signore è morto per noi, per renderti felice, sai, Cruciani? Il Signore è morto per noi. Vedi, tu mi hai detto che non sai dov'è la felicità, sì. Tu non sai qual è il limite del pudore. Può darsi, ma tu ti voglio fare una domanda. Lisa, tu che preghi per me, preghi per tutto il mondo, cioè, tu sai cos'è lo squirting? No, non lo so. Vabbè, amica mia. Sono felice di non sapere. Siamo lontani, bene, siamo lontani mille miglia. Ti posso dire che sono vissuta bene non sapendo che cos'è. Ma sei sicura che no? Non mi è mancato qualunque sei cosa sicura? Possa essere. Ma tu l'ultima volta... Se è un alimento, se è un gioco, non lo so. Ma sono vissuta bene comunque, senza saperlo. Ma l'ultima... Vabbè, d'accordo, ma l'ultima volta che hai avuto un rapporto sessuale, quando è stato? Senti, il comune senso del pudore, non te lo voglio dire. Impedisce, dici, dire. Impedisce... No, non te lo vedo. Sono cose mie. Ti prego, facciamo una preghiera insieme per me, che può darsi pure che scatti qualcosa. No, l'ironia. Ma che cosa? No. Ma non è l'ironia, però darsi pure che scatti qualcosa, Lisa. No, Cruciani, senti. Io ma un film porno, l'hai mai visto? Perché un film... magari avrai delle telefonate che fanno più audience. Ma un film porno, l'hai visto o no? Un film porno, l'hai mai visto? Ascoltami. Un video, qualche frame, qualche secondo, qualche immagine. Ma non sono cose che ti possono riguardare, scusami. Ma se uno li guarda, secondo te, se uno li guarda, che succede? Se, se una persona che sta ascoltando questa telefonata, che gliene può fregar di meno? No, cioè, ma se, secondo te, se, ma secondo te, se come uno li... ti viene a raccontare, vabbè, di amica mia, hai loro... chiamato tu, non è che ho chiamato io. Allora io ti dico una cosa, ti dico una cosa. No, Lisa, ci tenevo a dirti comunque, Cruciani, io prego per te, ti prego. Sì. Se c'è un'occasione che ti fa meditare, che ti fa restare solo per 5 minuti e pregare, dici, ma signore, veramente esisti tu? Fallo per 5 minuti solo. Sì, ma tu mi vuoi fare diventare una specie di Paolo Brosio, però io non facevo le cose che faceva Brosio. Ma tante persone porteresti al Signore, una tua conversione porterebbe al Signore tante persone. Ma io non lo so, adesso non ho idea. Magari, guarda, porterebbe tante persone, ma però tu per prima dovresti scoprirla. Ma tu di che setta sei? No, io sono cattolica cristiana. Sì, ma magari sei di qualche setta, qualche cosa del genere. No, sono cattolica cristiana perché? No, perché cosa credi che sono? Assolutamente. Ma secondo te la donna nuda che vedi magari in televisione, no? In televisione, nelle pubblicità, che effetto ti fa? Che effetto ti fa? Nuda. Eva era nuda quando il Signore l'ha creato e si è vergognata di essere nuda nel momento in cui ha peccato. Quindi il nudo l'ha creato il Signore, il nudo è bello. Ma secondo te il sesso extraconiugale è peccato? Sì, naturalmente. Oddio, non sta a me giudicare, io non neanche se è peccato. Io prega per me, prega per me, ti prego, prega per me, ne ho bisogno, prega per me. Senz'altro, Cruciani. Tanto, e tu cerca la felicità, tanto, me lo prometti? Tanto, prega, ti prego, ciao, prega, prega. Ciao. Tu che fai quando vai a dormire, ti sogni traffico? Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta La Zanzara. Il tuo programma non dovrebbe chiamarsi La Zanzara, è una linea erotica gratuita. Riprende la nostra grande inchiesta sui cognomi da cancellare, le vergogne d'Italia, gente che ha cognomi assurdi che gettano discredito, fango sulle comunità. Per esempio, Parenzo, io dico una cosa, ma se uno si chiama porco di cognome... Non è il massimo, non è il massimo. Dai, tu ti faresti cambiare il nome porco o no? Cioè, David Porco. Poi per te, sarebbe una cosa ancora più grave, no? No, da un punto di vista sì, religioso. Religioso, sì. No, porco, uno che si chiama Porco, come si fa a presentarti? So, conduce la trasmissione Giuseppe Porco, ma sarebbe impossibile. In alcuni casi aiuta invece. Ma no, dai, su, dai, è impossibile. In alcuni casi aiuta. Comunque, se guarda porta, no. Ma guarda che la gente invece ha chiamato sempre il nostro amico funzionario comunale, no? Cioè ha chiamato, sì. Abbiamo un funzionario in comune, amico in ogni comune abbiamo un amico che ha quella voce fastidiosissima. Sì, ma non è che è sempre lo stesso, non è che tutti in tutti i comuni. Comunque sentiamo che succede con i porco. Pronto? Sì, porco Angelino? Sì, dica. Sì, buonasera, chiamo dal comune. Sì, che vuole. Il suo cognome sarebbe da cambiare. Perché devo cambiarlo, scusi? Ma perché un cognome è imbarazzante, insomma, non è un bel sentire, onestamente. No, si vergogna del suo, io il mio me lo tengo. Pronto? Sì, buonasera signora, chiamo dal comune, sto cercando porco Giuseppe. E per quale motivo? Posso anticiparlo a lei? E certo. Siete disposti a cambiare il cognome, signora? No. Come il comune si permetta, non lo so, a telefonare determinate persone per il fatto del cognome? Che scopo c'ha il comune? Scusi. Il comune cerca di creare una nuova politica d'immagine, signora. Ah! Invece di vedere i problemi seri si mette a vedere queste cose. Ma guardi che noi stiamo lavorando come dei pazzi, Mio figlio è orgogliosissimo, ultimamente si è laureato e quindi più orgoglioso di queste gli hanno fatti i complimenti. Beh, avere in famiglia un porco laureato. Certo, porco, e dov'è il problema? Pronto? Sì, porco Giuseppe? Sì. Io la chiamo dal comune. Il suo cognome rientra tra quelli che possono generare determinati imbarazzi e per una questione d'immagine il comune le chiede di cambiarlo. No, grazie. Guardi, signor Porco, che stanziamo anche 1000 euro. Siccome io sono figlio di Porco Gabriele, non sono. Poi non voglio essere Porio, Porto, Porzio, figlio di Porco, no, assolutamente. Io ho una dignità personale e la mantengo. Io, Porco, resta il mio cognome, è Porco e resta Porco, ok? Oh, la gente è cazzuta però, cioè, si chiama Porco e vuole rimanere a essere chiamato. Io non, francamente non riesco a capire, se io mi chiamassi cazzo, mi chiamassi minchia. Beh, no, ma scusa, Andre, c'è gente che si chiama Vagina, per esempio. Ti pare normale a te uno che si chiama Vagina? C'è gente che si chiama Vagina, Vagina, Francesco Vagina. Ma dai, ma non puoi campare, Vincenzo, Napoli, vai. Cosa, buonasera. Scusami che parlo, che non mi senti bene, ma sto guidando e ce l'ho regalato. Che c'hai? C'ho la regolare. Ah, vabbè, dimmi, Vince, dimmi. Però ciao, io sto pregando per te che tu rimani sempre così. Perché tu mi porti avanti tutta la giornata. Sì, però ti mando avanti la giornata, amico mio, tu mi devi mandare avanti la trasmissione, non sento niente io qua. Togli l'auricolare. Togli per un attimo l'auricolare, dai. Dai, togli le mani dal camion mentre guidi, dai. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, crociato. Vai, togli le mani dal camion in autostrada a 150 all'ora. Ma guarda, 150, crociato, quelli più di 90 non faccio. Vabbè, ma allora... voglio dire un'altra cosa, il signore qua che sta vicino a te a Parento. Sì. Lui, tutto questo buonismo che tiene con questi rom. Sì. Allora, io ci voglio dire una cosa. Sì. Che se io faccio 800 km in una giornata, torno a casa e trovo i rom che mi rubano a casa, ma come faccio a non fargli niente? Che gli fai tu? Che li faccio? Io li lascio dentro casa mia, sotto le mattonelle. Come fai a lasciarli sotto le mattonelle? Sotto le mattonelle. Sotto le mattonelle li metto sotto, perché secondo me il signor... Come fai con queste mattonelle? Materialmente, come fai con queste mattonelle? Materialmente, faccio diciamo una collinetta in casa, capito? Sì, ma i rom non ci vengono a casa tua, io sono sicuro che a Napoli, dalle parti tue, i rom non mettono piede, questo, non rubano, non rubano. Amico mio, non vengono. Ma non vengono, io vorrei capire quanti sono i furti compiuti dai rom a Napoli. Sono curioso di sapere. Perché ho un piccolo sospetto, insomma, No, il sospetto è questo, perché io mi credi, io faccio tutta la settimana tutto il nord Italia. Sì. Ormai hanno preso il sopravvento questi qua, con tutto questo buonismo che c'è. Hanno preso il sopravvento, mi sembra strano, che non è che c'è la Repubblica dei Rom in Italia, però certo. No, è perché ormai si credono di comandare loro, capito? È per questo, perché tutte le persone buone, come diciamo come Parento, che reagiscono così, ormai non si può, si deve guardare faccia alla realtà. Tu dici che Parenzo è troppo buono e dunque i rom si sentono impuniti per la bontà di Parenzo e di quelli come lui. Questo, è per questo. Giù a Sud Italia non lo fanno, però perché lo sanno che qua giù a Sud Italia gli sparano, funziona diversamente. Gli sparano. Vabbè, ciao amico mio, ti abbraccio, ciao, viva i camion, viva serata, i camionisti. Bravo, pare. Viva i camionisti! Voglio più zanzara e meno pubblicità. La zanzara. Beh, amici miei, siamo al top, siamo veramente al top. Allora, mi annunciano che il garante della privacy ha aperto un nuovo procedimento nei confronti di questa trasmissione, cose di cui me ne fotto ovviamente. La cosa principale è che andrebbe fatta una grande battaglia, non so se le radio in generale, le persone libere di questo paese sono pronte a fare una grande battaglia, non solo per la profonda ingiustizia di queste cose qua, cioè che ci scassano la minchia su cose che fanno tutti e dunque se la prendono espressamente. No, ma se la prendono espressamente a parte che agiscono solo quando c'è di mezzo il Vaticano e altri soggetti politici. E in più tutti gli altri giornalisti o meno fanno la stessa cosa e non si muove paglia, ma non mi auguro naturalmente, non mi auspico che vengano presi provvedimenti o che vengano aperti procedimenti nei confronti di queste persone, assolutamente no, figuriamoci. Dicevo, mi aspetto che si inizi una grande battaglia di libertà su questa cosa qua, perché questi signori burocrati, parrucconi, la devono fare finire, devono smetterla. Il format radiofonico, io lo ripeterò sempre, che poi mi seguono nella difesa giudiziaria, me ne frego, il format radiofonico dello scherzo è una roba che esiste da quando esiste la radio, punto e basta. Se ne faccia una ragione e non ci rompano i coglioni. Allora, abbiamo con noi, beh, della serie Vegano Stammi Lontano, il professor Leonardo Pinelli, pediatra, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera. Come andiamo? Come andiamo? I vegani mi amano molto, vero? Ma no, la amano in senso generale, ma quando lei entrerà più all'interno del sì. problema vero, non quello demonizzato, com'è, vedrà che cambierà parere. Ma non credo proprio. Ma lei poi continuerà a mangiare carne, per carità. Ma perché voi dividete? Lei è vegano naturalmente, no? Io sì. Lei è vegano, perché voi dividete il mondo tra vegani o comunque onnivori e non onnivori? È questo che mi fa impazzire, perché? No, noi non dividiamo come niente, no? Noi abbiamo una presa di coscienza, non è una moda. Una presa di coscienza, appunto. È una presa di coscienza, perché sì. c'è gli aspetti etici, gli aspetti della salute, gli aspetti dell'impatto ambientale. Sì, però voi dividete il mondo in due parti, cioè no, quelli no, che hanno preso coscienza. Niente. Sono gli altri che ci dividono. No, quelli che hanno preso coscienza, perché per me uno può fare quello che vuole, eh. Sì, sì. Cioè uno può mangiare vegano, certo. mangiare la terra, mangiare le rape e basta, mangiare... Però sa, quando c'è le Nazioni Unite e dicono che gli allevamenti intensivi non sono più sostenibili perché... Vabbè, ma lasciamo perdere adesso queste cose qua. Allora vuol dire che bisogna prendere coscienza, però per adesso il mondo non ha fatto niente su questo. Cioè il mondo si divide in due, quelli che hanno preso coscienza come lei e noi che siamo sostanzialmente degli incoscienti. Che sono milioni e milioni nel mondo in crescita... Sì. Che hanno preso coscienza, che sono più intelligenti, diciamo la verità. No, sono più sensibili forse. Sono più sensibili, io sono un insensibile, io Parenzo, eccetera, siamo insensibili. Beh, insomma, sa, il discorso che fa effetti, i cambiamenti ambientali, quando il 20% sì. dell'effetto serra dipende dagli elementi intensivi. Ma non è vero, ma non è vero. Non professore. Non parla mica come ad altre trasmissioni che lei mette professore, in dubbio quello che dico. Professore, adesso non andiamo nel dettaglio, ma questa è una teoria, una tesi, ma non è così. Simpatico, però mi deve ascoltare, se mi ha chiamato. No, io l'ascolto, come Nazioni Unite, le Nazioni Unite lo dicono, 2010, un ma le Nazioni Unite dicono tante cose. Il 20% delle emissioni sì. di gas terra dipende dagli allevamenti intensivi, posto... le scoregge dei bovini e le rotazioni di metano dei bovini. Vabbè, ma allevati col mais, sì. non col terra. Le scoregge dei bovini, che fanno le scoregge dei bovini, scusi? Producono anidride carbonica, sì, quello il si metano sa. Dalle rotazioni, sì. che rappresentano il 20% delle gas serra emessi. Senta, io cosa c'entro io con quello che fanno i bovini, scusi? No, lui dice gli no. allevamenti intensivi, più intensivi sono e più... Allora, ho capito, allora. Ma adesso non è che siccome... Ma scusi, ma lei si immagina un mondo in cui non si mangia più la carne? Se lo può immaginare ma o no? No, ma basta ridurlo, nessuno pretende tutti diventino vegani. Scusi, i bambini, adesso si parla molto di bambini in questi giorni, certo. no? Di questa vicenda, non entriamo nel dettaglio perché non sappiamo quello che è successo. Pesce anche, però lui vuole allora, anche i bambini, pesce. Secondo lei, crescono meglio se sono vegani? Ah, io sicuramente dico di sì, questo lo dice la comunità scientifica. Ma non lo dice la comunità scientifica, siamo tutti cresciuti normalmente senza essere vegani, professore. L'Accademia Americana di Pediatria, dove ci sono 320 milioni di bovini in allevamento e 230 milioni di americani, dice che l'alimentazione vegetariana, anche vegana, sì. Ma hanno il cervello che funziona meglio. Ma hanno il cervello che funziona meglio, si ammalano di meno, certo, che cosa hanno di più? I bambini si ammalano di meno, proprio per quello che dici, e il quoziente intellettivo da studi pubblicati su riviste importanti e serie è migliore. Questo cioè, e il cervello pure funziona meglio? Certo, sicuramente. Cioè sono più intelligenti. Hanno un quid, come diceva Berlusconi, cioè, hanno un quid, come diceva di Alfano. Un quid maggiore. Intellettivo vuol dire. Sì, lo so. Questi sono dati. Insomma, no, ma dai, un quoziente intellettivo. No, ma per carità, li sta dicendo lei questi dati? Un quoziente intellettivo, professore. Cioè, professore, scendo dalla sedia e faccio un macello, spacco tutto. Cioè, sono più intelligenti di chi non è vegano. Ma dai, su. Non ci credo, professore, non ci posso credere. Le mando le pubblicazioni, faccia una ricerca. Andiamo un'altra cosa, sfatiamo un altro mito. Si fa sesso in maniera più forte, si fa meglio sesso se uno è vegano? Allora, se si va a vedere dov'è il problema delle disfunzioni erettili, che è un problema vascolare, i vegani hanno una migliore salvaguardia del sistema circolatorio. Perché dunque? Hanno una dieta molto ridotta di grassi animali e dunque chi è vegano scopa meglio. Adesso io lo riduco in termini zanzareschi. No, ha meno problemi di ipertensione, quindi appunto. Di riduzione della circolazione nei corpi cavernosi. Gli funziona meglio. Gli funziona meglio. Uomo. E funziona meglio. Questo ma in che senso funziona, funziona meglio? Funziona meglio l'uccello. L'erezione. L'erezione. La funzione erettile è meno frequente nei soggetti vegetariani vegani. No, adesso effettivamente. No, ma effettivamente a pensarci bene, no? Se uno fa una mangiata, ad esempio, ieri sera sono andato. Ma che c'è? La mangiata la puoi fare pure se sei vegano. No, ma uno mangia. Ieri sera ho mangiato molto ossobuco, no? Ma, adesso, faccio per dire. Ossobuco, il professore sarà nel sangue. Ma secondo lei tutto questo casino fatto per un bambino che non sta bene e che non è stato seguito probabilmente, io non conosco il caso. Io sono molto scettico su questo, bisogna sempre verificare queste cose dei bambini, se è vero o non è vero. Ma oggettivamente il professore ha ragione, perché ieri dopo la mangiata di ossobuco e polenta e una bellissima bottiglia di vino che mi sono non fatto. Non ti si rizzava? No, ma non avevo neanche voglia, ero già appagato dell'osso buco, capito? Non ti si rizzava, vabbè, d'accordo. No, ma non ho neanche provato, non mi sono neanche cimentato per la verità. Comunque, parliamo di questo, come se mai, mi fossi mangiato bambino, magari due erbette. Sì, dimmi, professore, lei è molto simpatico. Allora, attento, andiamo sulle robe serie, perché io... Ma questa è serissima, problema erettile, problema... Lasciamola a parte quello. Ma quello è serissimo. Io sono felice di quello che sto facendo, eccetera. Ma andiamo a vedere tutta questa pubblicità per un caso, ce n'è stato un altro in giugno, di un bambino di una famiglia che è stata abbandonata al fai da te perché i medici che sono, lo sa che nella laurea in medicina non c'è un esame di dietetica e nutrizione, lo sapeva, quindi vabbè, ma quello va bene, ci può anche stare. No, professore, io le chiedo una cosa, l'80% delle malattie l'OMS dice derivano da un'alimentazione errata. Senti, ti chiedo una cosa, ti posso dare del tu, Leonardo? Certo, certo. Allora Leonardo, tu consigli i vaccini? Parenzo diventa pazzo su questa cosa. No, io li consiglio. Ah, certo. Consigli di farli? Sì. Consiglio, magari aspettare un po' di tempo, perché però meno male, specialmente in soggetti che hanno un sistema immunitario carente. Ok? Ma i vegani ne hanno bisogno? I vegani hanno un sistema immunitario che più funziona forte, meglio. Più forte. Cioè, certo, tutto... perché il sistema immunitario dipende dall'intestino, dai batteri. Cioè rende inutili i vaccini. In pratica, se uno è vegano può anche non farli. Si difendono molto meglio dalle malattie in particolare. Ma secondo te, chi mangia la carne è veramente distrugge il mondo? Contribuisce a distruggere il mondo? Questo sicuramente sì, l'effetto serra è un effetto devastante. Io non ce la faccio. Per esempio, siamo tutti carenti, anche lei, di vitamina D, perché i gas serra impediscono ai raggi ultravioletti di produrre dal sottocute la vitamina D, non c'è negli alimenti. Cioè, praticamente lei mi sta dicendo chi siamo tutti dei coglioni, cioè quelli che continuano a mangiare la carne tutti male informati. No, siamo dei coglioni, dai. Non c'è formazione. L'altra sera su una televisione che non è quella nazionale è andato in onda un documentario di un'ora, una televisione molto importante, Sky, possiamo dirle, un'ora su due che sostengono l'alimentazione vegetariana e vegana, perché uno è un chirurgo, si occupa di coronaropatie, e l'altro un ricercatore allora hanno dato la possibilità di spiegare alla gente il perché su base scientifica. Allora le faccio però fare una domanda da Paolo da Latina, perché mi è venuto in mente adesso. Paolo da Latina le deve fare una domanda. Paolo, eccoci. Vai Paolo, c'è un professore qua, esperto pediatra, esperto dimmi, fai la domanda che dovevi. Vai. Ma io volevo sapere se i vegani possono praticare il sesso orale. Le vegane o i vegani, naturalmente, sì, certo. Paolo, questa è una cosa, professore, guardi, è una cosa che mi hanno chiesto in tanti però, Vabbè, senta, guardi, assistare, stiamo andando sul ridicolo. La trasmissione è carina, eccetera, per cui stiamo passando da cose serie. No, ma è una cosa interessante. È una cosa interessante. Vabbè, io non rispondo a questo. Non risponde all'ascoltatore, non risponde all'ascoltatore. Sono domande stupide. Vabbè, sono domande stupide. Ci sono cose più serie, perché dietro questa propaganda enorme per un caso ci sono 6 milioni di vegetariani, 1.150.000 vegani, perché due bambini non seguiti dalla classe medica, che non è formata in questo, non ha esperienza, e che quindi sono costretti a fare fai da te, quindi eccetera, sono andate incontro probabilmente a una carenza di vitamina B12, la B12. Attento Cruciani, probabilmente chi mangia anche carne eccetera ha carenza di B12. Vabbè, questo non è però non è un convegno medico, professore. No, ma glielo dico io. Io sto facendo delle indagini dove lavoro, il 57% delle persone persone hanno una carenza di B12 e il 74% stiamo cioè di i vegani, dice il veganesimo, i vegani con questi bambini, con i problemi di questi bambini non c'entrano nulla. Perché ci guardate in modo così strano? Cioè perché quando strano, io conosco uno vegano mi guarda in modo strano, professore, le assicuro, mi guarda in modo strano. Ma è vero, Leonardo, mi guarda in modo strano. I maleducati ci sono in tutte dappertutto. Le società, eccetera. Vabbè, noi però siamo molto, molto sereni, anche perché diciamo l'alimentazione vegetariana promuove un animo che è aperto al prossimo. Cioè siete più sensibili, più pacifici, più cioè, ci sarebbero meno guerre. Sì. Ci sarebbero meno guerre con i vegani. Certo, ragazzi, dove sono? Scusi, non ce la faccio, non ce la posso fare. No, non ce la fai. Non ce la posso fare. Quali sono? Lei mi faccia un esempio dei paesi che sono vegetariani, in India non ci sono guerre, gli indiani sono... Ma come gli indiani? Ho capito, ma succedono le peggio cose in India, cioè ci sono le caste, le donne trattate con la di merda, eccetera. Questo ma è un altro discorso. Ma no, ma lei sta dicendo... Ma la guerra, lei stava parlando di guerra. Vabbè. Siamo professore, ti abbraccio, Leonardo, ti abbraccio. Ciao, ciao. Anche te. Ciao. Però devi cambiare atteggiamento. No, io sono come sono, per carità, no, sono aperto, ascolto. Ma non il vegetariano è aperto. Non mi avrete mai, non mi avrete mai, non mi avrete mai. Antonio da Como, vai. Dimmi Antò. Aspetta, abbassa la radio, dai. Cazzo, un attimo. Allora, vai, dimmi. Io voglio sapere se questo signore qua va sull'isola dei famosi dove non si mangia mai e tutto. E dopo un po'. E dopo un attimo gli fa vedere un piatto, dopo un mesetto che è lì, che bello scheletrico, di pappardelle al ragù di cinghiale. Voglio vedere. Beh, amico, però in condizioni come dire estreme, magari anche un vegano invece di morire magna. E allora sei vegano, allora un bel piatto di pappardelle con un po' di pecorino sopra. Ma ho capito, amico mio. Ho capito, ma loro. Poi un'altra cosa. Allora quando scorreggiavano i dinosauri che non c'erano gli uomini, sono autobruciati da soli. Lui dice che scorreggiano gli animali e c'è l'effetto serra. Vabbè, dai. Paolo, ma Bari, vai. No, ma una cosa dimmi, Antonio, importante. Dimmi, io ho chiamato perché ho sentito quella Santa Maria Goretti al telefono. Sì. Prego per te. Ecco, quelli sono i tipici personaggi. Ah, perché hai messo, senti questa trasmissione che è così aperta, che è a misura d'uomo, che l'uomo è questo. Ok? Certo. L'uomo è questo, fondamentalmente l'uomo medio è questo. Gli piace tutto quello che è apertura mentale, sesso e tutto. Cosa sente a fare? Ci sentisse Radio Maria? No, questo no. Lisa deve continuare ad ascoltare La Zanzara, per carità, ma uno non è che si può restringere il pubblico. Il pubblico deve essere il più vasto possibile, dunque anche Lisa, anche gente che prega, anche gente religiosissima, devono ascoltare La Zanzara e magari avere una conversione verso le cose libertine, libertarie, radicali. Ragazzi, ci sentiamo lunedì, vai, 18:30, ciao. Luciani, io prego per te, ti prego, se c'è un'occasione che ti fa meditare, che ti fa restare solo per 5 minuti e pregare, dici, ma Signore, veramente esisti tu? Fallo per 5 minuti solo, vedi se il Signore ti parla. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente La Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Tu non ti rendi conto, ma stai predicando il male. Radio 24. La passione si sente.